il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Qualcuno ha temuto fino all'ultimo, ci sarà, non ci sarà, com'è possibile questo ritardo? Sì, certo ritardo diciamo, ma ci siamo, sempre Roberta Giordano con voi, il sabato, del resto che sabato sarebbe, no? Se non ci sono più le mezze stagioni, e le mezze stagioni non ci sono effettivamente più, ma questo ve lo confermo dopo, mentre voi sapete questo è il nostro appuntamento imperdibile alla fine della settimana per ritornare un po' sui fatti di questi giorni, da quelli che sono partiti da domenica scorsa, quando ci siamo lasciati il sabato, fino a oggi. Quante cose sono successe, quanto tempo sembra passato. Il mondo è veramente in continua evoluzione o involuzione a seconda dei punti di vista, naturalmente. E come tutte le prime pagine ancora dei giornali, anche oggi la morte di Gheddafi, i vari dubbi, gli strascichi, le domande su cosa ne sarà, insomma, della Libia dopo la morte di Gheddafi. Ancora, per esempio, il Corriere.it titola adesso: nessuna autopsia sul corpo di Gheddafi, ero lì, offriva oro per non ucciderlo, racconta un ribelle. Ancora, insomma, se ne diranno di cose su questa morte, su quello che si porterà dietro. Poi, per quanto riguarda invece l'Italia, l'elezione, la nomina del nuovo governatore, dopo tante polemiche, dopo tanta attesa, di Banca Italia, i vari vertici sulla crisi dell'Unione Europea e il presidente Trichet, governatore della Banca Centrale Trichet, che ha detto l'Europa sta dando un'immagine di sé disastrosa nella gestione di questa crisi, insomma, quindi possiamo essere contenti. E anche l'Italia, insomma, è stata un po' bacchettata, dice questo decreto sviluppo, allora comincia a essere concreto o no? Anche questa è una delle notizie della settimana. Il maltempo, purtroppo, che ha fatto vittime a Roma e nel Napoletano, l'elezione nel Molise vinta dal PDL, molte altre notizie, ma questo pensateci voi se io non mi sono ricordata qualcosa, sono tante. Poi guarderemo anche sulla pagina Facebook della trasmissione quali sono le notizie che vi hanno più colpito e che avete citato e in questi giorni. Il numero verde, ve lo ricordo, per intervenire in diretta è 800 24 00 24, ribadisco 800 24 00 24. Ma dicevamo, che cos'è che anche questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni. Ecco, sappiamo che ormai la Cina è la grande potenza, praticamente ci sta comprando, anche comprandoci proprio i debiti sovrani dei vari paesi, e già era una potenza emergente, altro che emergente, adesso sarà un po', come dire, travolgente, ecco, tra pochissimo. Ma la Cina ha cominciato con la manodopera a basso costo, facendo varie cose, imitazioni, ma anche cose che i vari imprenditori dei vari paesi, anche europei, americani, anche italiani, dislocavano da quelle parti, perché appunto costa poco la manodopera. Il Made in Italy è cominciato a essere un Made in China, se voi guardate anche capi d'abbigliamento firmati di grande prestigio, alla fine poi dove sono fatti? In Cina. Ma come se non bastasse, già non c'erano più le mezze stagioni, adesso stanno scomparendo completamente, perché pensate il paradosso, persino Algeri, dico Algeri, capitale dell'Algeria, mica qualsiasi paese, ha commissionato la costruzione della nuova grande moschea di Algeri a un'impresa cinese. Voi avete mai sentito parlare di una moschea costruita dai cinesi? Ma adesso anche le moschee vengono costruite dai cinesi. Sarebbe bello fare proprio una puntata su questo argomento, capire un po' la Cina, prossima avventura. Ma signore e signori, non perdiamo altro tempo, anche perché forse sentirete dei rumori di sottofondo. È un ospite scalpitante che sto per presentarvi. Chi è l'opinionista estemporaneo di oggi, signore e signori? Filippo Facci, buongiorno. Si faccia sentire subito, protesti, perché le mezze stagioni, cioè oggi guarda fuori, no, oggi se c'è non un è po' una di mezza stagione, cos'è, inverno? È no, vero. È estate, no, c'è pure il sole, è proprio autunno pieno. Primo, secondo. No, aspetta, però ti devo contraddire. Mi contraddici dopo. Io non l'ho interrotta. Va bene, non la interrompo. Aspetta, prego. Mi lasci parlare tutto il campionario di frasi da talk show. Ha ragione. Poi anche parlo io e non interrompo lei. Paese, secondo me, anche un po' in tutta Europa, siamo in autunno, perché si dice la più grande crisi dopo guerra, eccetera. Non ci siamo ancora nella vera crisi, secondo me. Siamo in autunno, siamo nel basso impero. Io sono in un periodo che guarda, cioè, mi vesto di nero. E ho l'umore nero, non esco di casa, non leggo i giornali. E è venuto apposta per me e per voi. Assolutamente, oggi, col motorino, tra l'altro. sei prudente tu col motorino o sei di quelli che supera, taglia la strada? Guido come un, come si chiamano quelli che portano le pizze, quelli, faccio la gara con loro, sì, più o meno, guido come un pazzo. Una pizza me la potevi anche portare, visto che vabbè, io arrivo così e porto una pizza, certo, per non sbagliare. Vabbè. Vediamo invece se tireranno pizze i nostri ascoltatori e ascoltatrici, non credo naturalmente, in modo giocoso, qui a Non ci sono più le mezze stagioni con Filippo Facci, che a volte si presta, diciamo, anche a questa, a questo ruolo. 800 24 00 24. E Filippo, vorrei chiedere, anzi vorrei sottoporre una delle notizie importanti, vediamo se la ritrovo, di questa settimana. Intanto, siccome tu sei ottimista, hai detto, e ti vesti di nero e hai l'umor nero, voglio dare subito una notizia che dà speranza un po' a tutti, soprattutto in Italia, no? Allora, notizie, non sono granché, le stagioni sono quelle che sono. Ebbene, sulla prima pagina di Repubblica, oggi, i cattivi, purtroppo, tra parentesi, guadagnano di più. La cattiveria paga in contanti. Un lupo guadagna circa $9,000 in più di un agnello. Cancellare il grazie e il per favore dal proprio vocabolario d'ufficio fa lievitare la busta paga di oltre il 18%. Posso dire che è vero? Tu puoi dire che è vero? Non lo posso dire perché proprio perché sono assolutamente incompatibile con i cattivi, intesi anche come un po' gli stronzi, però attendiamo, sì, bisogna capire, Boxi, no? Bisogna capire se sì, stiamo parlando di cattivi nel senso di molto determinati oppure di cinici che non hanno rispetto degli altri, di quelli che vanno come dei panzer avanti, schiaccia sassi. Sì, ecco, se non è un metodo ma è l'unica strada, beh sì, ma voglio dire, è semplicemente una traslazione del fatto che nella vita in generale vanno avanti questo tipo di persone, cioè sì. I vincitori sono tendenzialmente più aggressivi dei vinti e via dicendo. Quindi quelli figurarsi... che hanno il pelo sullo stomaco, io non avendo neanche uno, diciamo che insomma il problema assolutamente è quello, sì. Ecco, di avere la pelliccia sullo stomaco. Poi un'altra notizia centrale di questi giorni è questa, che mi ha un po' incuriosita, Filippo. Berlusconi, appunto, il Presidente del Consiglio, in un momento... è protagonista assoluto degli ultimi 20 anni della nostra storia, 30 anni forse. Ecco. Devo dire, ha dato subito la notizia, no? In un momento appunto di riforme, prossime venture, che speriamo quanto mai prossime, ha dato subito la notizia. Al vertice del PDL ha detto: lavoriamo per cambiare la TV. Ha detto: ci sono dei programmi allucinanti in televisione. Secondo te a cosa si riferiva? Non lo so. E come li vuole cambiare questi programmi? Non lo so, se si riferisce alle sue TV, in qualsiasi maniera cambi i programmi delle proprie TV, le migliorerà. È del tutto casuale che io abbia appena lasciato Mediaset. È una notizia Mediaset, in anteprima questa? No, beh, del tutto casuale nel mio cinismo è che il fatto che io abbia appena lasciato Mediaset e andrò a lavorare alla 7. Però, però ecco. Anche questo è proprio uno scoop al momento. Beh, in un certo senso 7. In effetti non ho ancora detto nessuno. Beh, queste sono cose che succedono, non ci sono più le mezze stagioni, effettivamente. Senti, è venuto apposta per dire Berlusconi, quando le cose andavano benino e in maniera ingiusta, accendeva la televisione, o meglio la schiera di televisione, no, e vedeva che tutti se la prendevano con lui ingiustamente. Oggi fa la stessa cosa, nel senso accende la televisione e vedono che se la prendono tutti con lui, la differenza è che oggi se la prendono, secondo me, abbastanza giustamente. Quindi, insomma, Berlusconi è un po' in ritardo. Non può cambiare la TV, deve cambiare la realtà. Cosa ne pensate? 800 24 00 24, Filippo Facci, naturalmente lo conoscete, giornalista, scrittore, lavora per Libero. Come andiamo? A Libero? Pensavo nel descrivermi. No. Come andiamo? Andiamo dunque prevalentemente in motorino, perché lì non c'è mai assolutamente parcheggio, perché sì, è vicino a Largo Oberdan. Libero va bene e io però me ne sto a casa, perché io scrivo da casa, perché sono un orso. E perché poi stai facendo 1000 traslochi, Filippo Facci è un trasloco umano praticamente, sì, sempre ecco, con le scatole. Io in realtà vengo qua, giornalista, scrittore, ma io vi dovrei parlare di idraulica, di elettricità, di traslochi, di ditte, di ascensoristi, perché io di questo mi intendo in questo periodo, io sto occupandomi di questo, magari uno pensa ai giornalisti sempre lì a guardare l'attualità, ma figurarsi, tanto se leggo un giornale. Chi cucina, chi coltiva l'orto, insomma. L'orto. Poi, vero, l'orto. Poi, Filippo Facci, la mia principale passione. Incarni la flessibilità. Oggi bisogna essere, sai, bisogna essere flessibili, quindi se sa mai ti intendessi di idraulica, prima o poi potrebbe tornarti utile. Ma arrivano già dei messaggi per te, io dico sempre che non li leggo i messaggi perché preferisco sentire direttamente le vostre voci, però questo, poi li leggo tutti, personalmente, dopo, finita la trasmissione, li leggo tutti, ma mi era caduto l'occhio, Filippo, su questo, di Ale da Senigallia, che secondo me... Io ho offerto da bere, almeno un succo al mirtillo o qualcosa, dice grande facci, come nelle Marche, Senigallia, grande facci dovrebbe avere 10 minuti al giorno anche su Radio 24, una pillolina schietta ma sincera. E ti stai procacciando lavoro? Mi hai detto che vai sulla 7, quindi... Sì, no, grazie. Se non è l'addetto al personale di Radio 24, però no, non mi interessa. Non ti interessa. Ci interessa invece sapere cosa ha da dire Giorgio da Bologna. Caro Giorgio. Pronto, buongiorno. Pronto. Eccoci qua. Niente, io volevo parlare così, volevo parlare della nostra classe politica, ma più che altro di questo lancio, di questa proposta di rinnovo della legge reale. Io ho 60 anni, faccio l'operaio. È così, niente, è questa proposta da questi, io li chiamo i più odiati dagli italiani, questi mantenuti del Parlamento, no? Che peccato non gliene frega niente, cosa vuole che gliene freghi a questi personaggi di questi quattro black bloc? Quello che interessa è che la gente normale, gli operai, i commercianti, io ho tanti commercianti che conosco che sono al brebo, sono proprio... Al? A cosa sono? Scusa, parlo in pugliese, sono proprio alla frutta, sono proprio... Ma come si dice invece in emiliano alla frutta? Alla frutta, diciamo, alla frutta. No, tu hai detto un altro termine. Vorrebbe dire che al sono brebo. Proprio no, stesi, no, ma tu hai sono detto... stesi, sono stesi, sono proprio che... No, non lo sapevi in bolognese. È così, niente, capito? Perché per questi personaggi è una grossa baza, queste storie, queste è una baza nel senso che per loro quando succedono questi fatti si rifanno la virginità. Questi personaggi ci hanno portato alla disfatta del paese, proprio alla distruzione dei sogni, del futuro, dei ragazzi, proprio. E adesso si vogliono rifare una virginità, quando capitano queste cose per loro, meno male che succedono. Giorgio, tu ti stai riferendo alla classe dirigente, ai parlamentari, eccetera, una classe politica che ha deluso, che ti ha deluso, ma su questa cosa della legge reale ti riferisci alla proposta che è stata fatta dopo gli scontri di Roma, no? Nella manifestazione degli Indignados, tutto quello che è successo, hanno detto qui bisogna ricorrere alla legge reale, quindi magari carcerazioni preventive, uso di manganello, certo, sparare se necessario, eccetera, eccetera. Ecco, però tu sai che si è creato una specie di strano tandem, di connubio, perché da una parte Maroni, ministro leghista, e dall'altra arriva. Di Pietro. Sì, aspetta che c'è il mal di pancia, sì. Filippo. Sì. Ai parlamentari e politici, parliamoci chiaro, quello che gli interessa è la difesa della rendita, loro non gliene frega niente, loro vogliono i loro interessi. Parliamoci qui. No, ho capito. Basta. Giorgio, passo e chiudo. Mi interessava questa... Filippo, tu avevi voglia, ti vedevo scalpitare, che cosa pensavi di questa... A parte questa... che io la manifestazione di sabato scorso me la sono fatta tutta, dall'inizio alla fine, perché sono rimasto in casa. No, ma sul serio, sono passato in mezzo a... macchine incendiate, bombe che esplodevano, sono rimasto 2 ore e 20 bloccato dentro anche senza volerlo. Perché lui andava a un matrimonio, sì, in realtà, e non c'era verso di accedere verso il centro città dove dovevo andare, quindi sono stato catturato da una fiumana arginata dai poliziotti che null'altro hanno fatto se non appunto arginare e impedire che defluisse la gente, i manifestanti, verso i palazzi del potere, i palazzi istituzionali. Ma a parte questo, ecco, per applicare delle leggi, reale o irreale che sia, ci vuole anzitutto che i poliziotti siano presenti, cosa che appunto durante la manifestazione non erano. Ma secondo te non erano presenti nel senso che non facevano il loro lavoro, o sono in sotto-organico? No, c'era una disposizione legata a una strategia del questore e in parte legata alla sindrome che circonda i poliziotti in questo periodo, che temono di fare il morto, di scatenare incidenti, eccetera, eccetera. Insomma, la sindrome, chiamiamola da G8 di Genova, per cui si sono limitati semplicemente a contenere, appunto, come ho detto prima, arginare la folla per far sì che defluisse verso Piazza San Giovanni e non verso, come posso dire, rispetto a Via Cavour, la destra di Roma e verso, cioè verso il centro, Piazza Repubblica, eccetera. E per andare alla telefonata, mi piacerebbe avere il tempo che non abbiamo di argomentare tecnicamente sul perché la legge reale proposta, che l'abbia proposta il ministro dell'Interno Maroni o in strana sponda Antonio Di Pietro, è una sciagura e una cavolata che potevano risparmiarsi di dire. La legge reale, ricordiamo, viene da Giovanni Reale, un ex senatore repubblicano che in tempi diversi, tempi di terrorismo, fece una legge che prevedeva più tutela dei poliziotti, e ben venga. Il fermo di polizia 4 giorni prima che un giudice lo convalidi, la possibilità di impedire che si mettano caschi e cose del genere cosa che oggi noi non riusciamo a fare neppure nel caso di un burka o di uno chador, per capirci, e poi la carcerazione preventiva e le armi usate anche appunto in caso di casini pubblici, mm-hmm, come è successo sabato, insomma tutta una serie di provvedimenti che servono nel momento in cui ci fosse un clima diverso, e cioè quello in cui si lasciasse che i poliziotti facessero il lavoro che devono fare con gli strumenti che già hanno e che secondo me sono più che sufficienti. Bene, molto ben argomentato da Filippo Facci. Sentiamo invece Beppe da Verona, sempre al numero verde 800240024. Beppe. Ciao intanto Roberta. Ciao a te. Ti ascolto sempre con ammirazione. Come grazie. Beppe, allora, sono come... ti io avevo trovato probabilmente il sistema di risolvere il discorso che facevate prima di migliorare la televisione. Ah, no? Quindi tu hai tutto un palinsesto in testa, Beppe. Allora sì, io parto da un presupposto. Siccome un programma che non va di solito non lo si manda più perché non fa share, perché non fa audience, perché, e allora lo si taglia, poi dopo chi deve fare la programmazione deve scervellarsi, deve tirare fuori idee nuove per coprire quel buco. Ah, scusate, perché non facciamo a meno, lo facciamo proprio come scelta editoriale anche nelle redazioni, eccetera, non parlare più del Premier, nel bene o nel male? Cioè la parola tabù, come il gioco tabù, non si dice più... Sì, non ne parliamo più. Sì. Allora, se non se ne parlasse più, rimarrebbero dei vuoti così spaventosi in centinaia di trasmissioni, di programmi, che alla fine qualcosa ci devono mettere dentro. Questo sarà di stimolo per inventarsi qualche cosa, per creare, per costruire, non ci sarà bisogno di... Sì, anche se Beppe, non è che tutti i programmi della TV siano basati su Berlusconi, no? Ci sono anche tanti programmi di intrattenimento che non mi sembra... Sì, anche quelli di intrattenimento, alla fine l'allusione alla barzelletta del Premier o alla stronzata che ha fatto il Premier o al bunga bunga c'è sempre. C'è sempre. Mettiamo e quello che non ci rendiamo conto è questo, che più se ne parla e più lui si sente gasato e si sente spinto a fare. Beppe, però ti fermo un attimo, perché tu sei di Verona, giusto? Sì, sì, ci siamo sentiti ancora io e te. Sì. Sì, mi fa piacere. Senti, del sindaco Tosi, no? che è un po' nell'occhio del ciclone in questi giorni, perché è un po' critico nei confronti del governo Berlusconi, di Berlusconi stesso, si aveva dato tu dello mi hai stronzo. Chiesto un'altra volta cosa penso della Lega, io ti avevo detto che sono di sinistra. E chi però, sei? Scusa, pardon, sì. Io ho visto Tosi proprio qualche giorno fa, che c'è stata la festa dei Vigili Urbani, no? L'anniversario della Fondazione dei Vigili Urbani. Ho avuto modo di parlare con lui. Ti dirò, è interessante il tipo, cioè non a caso qualcuno l'ha chiamato si può dire stronzo in televisione, in radio, sì. Tu io. Se lo dice facile è sdoganato, basta, si può dire. Sì. S puntini puntini O, ecco. Lui sta tirando fuori una idea, una visione della Lega, no? Che si distacca da quella che era stata l'idea propulsice della Lega all'inizio, ma che è molto più reale e concreta, nella considerazione che effettivamente una persona mediamente equilibrata capisce che un certo tipo di federalismo portato alle estreme conseguenze non darebbe vantaggio a nessuno, cioè in buona sostanza. Diciamo più che federalismo o secessione. Beppe, ma sì. Quindi ti piace o non ti piace Tosi a questo punto? Adesso concludendo. Mi piace. Comincia a piacere. Ah. Te lo dico come uomo di sinistra. Quindi dal 60% di consenso che ha potrebbe avere il 61% da oggi con te. Beppe, ti ringrazio. Grazie Roberto. Ciao, grazie. Alla prossima. Un bacione. Ciao. Grazie Beppe anche a te. E adesso io direi, mentre Filippo fa ci riflette, perché già riflettuto. Filippo ha degli occhi che cercano i pensieri, tu lo vedi con questi occhi che girano e non li trovano, girano. A volte non li trovano, a volte sì, dipende. Però adesso andiamo a trovare invece un altro pianeta, sapete, cioè l'unico programma sul globo intero che ha un collegamento con un altro pianeta è questo. Riflessioni da Marte. Qui da Marte questa settimana si è visto sul globo terracqueo un gran trambusto, cosa che noi marziani non avremmo mai potuto neanche immaginare. E fa un certo che ricordare che il Raïs, vissuto come ha vissuto e finito come è finito, disse un giorno, proprio così disse: prima o poi dovrò fondare un paio di partiti in Italia per restituire speranza al vostro popolo. Per fortuna dell'italico popolo, però, a dare a esso stesso, cioè al popolo stesso, speranza non è il fu colonnello, ma Scilipoti. All'Assise, ieri l'altro, del Movimento di Responsabilità Nazionale, Domenico Scilipoti è stato acclamato con un «Memmuzzo, sei il nostro salvatore!» ed effettivamente alla convention responsabile Mimmo era piuttosto, come dire, profeticamente ispirato. Noi dobbiamo essere uniti, forte, ma non bastano le parole! Si deve scendere nelle piazze per convincere la gente che il tempo è arrivato, l'alba di una nuova era è iniziata. Questo è quello che dobbiamo dire, dobbiamo fare e dobbiamo sentirci di professare. Dunque l'alba di una nuova era, avete sentito? Ma pare non si trattasse tuttavia della fine del mondo prevista proprio per ieri, 21 ottobre 2011, da un altro profeta, Harold Camping. Come sapete, del resto i profeti non si mettono quasi mai d'accordo sulle profezie. Attendiamo dunque forse per il 21/12/2012 l'alba della nuova era profetizzata da Scilipoti. Nel frattempo la situazione resta, diciamo così, problematica, ma Gasparri assicura: se con questa crisi avessimo seguito le ricette di Bersani saremmo tutti morti di fame. In effetti pare che Bersani, benché emiliano, non sia un granché come cuoco. A dar le ricette ci pensa il Presidente del Consiglio, che consiglia, essendo appunto Presidente del Consiglio, evitare di dare del tu all'avversario in video, perché la troppa confidenza potrebbe dar luogo all'effetto teatrino. Usare il linguaggio del corpo per contraddire l'avversario, fare vistosamente no, no, con la testa. Non sorridere mai davanti a un comico, anche nel caso si trattasse di un politico, potremmo aggiungere. E mentre la Francia sta vivendo una vera emergenza, ovvero un eccesso di uomini che ricorre all'intervento di allungamento del pene, il Presidente del Consiglio dell'Italico Stivale si sfoga. In questi anni mi hanno accusato di tutto. L'unica accusa che non mi hanno mai fatto è di essere gay. In effetti, è il reato più temibile, l'accusa più infamante per il Cavaliere, che però da quando ha ipotizzato un nuovo nome per il PDL, Forza Gnocca, ha un alibi inconfutabile e soprattutto è stato completamente scagionato anche dai giudici di Milano. Torniamo con i piedi per terra, caro Filippo. Che pensi di questa alba di una nuova era? Mamma mia, ma marziani, tu? Sentite, se voi siete messi così male da lassù da occuparvi di Scilipoti, io invece che insomma sto a Lambrate, Milano, vi dico, cioè prendetevelo su, fate quegli esperimenti che fanno vedere nei film con i cervelli, cioè in missione ai cervelli. Io rivendico il diritto civile a questa trasmissione pregiata radiofonica di non avere nessuna opinione su Scilipoti. Vabbè. Cioè la vita è un'entità finita, non dura per sempre. Quindi c'è poco tempo, occupiamoci. Ogni scelta è una scelta e quindi esclude qualcosa. Cioè c'è qualcosa che io non farò nella vita perché mi devo occupare di Scilipoti. Dico velocemente altre due cose. Sì, certo. Perché mi sono segnato le cose dette prima. Sugli ascolti, sull'audience, io è una vita che faccio una proposta di cui ho verificato anche tecnicamente la possibilità, che non è quella di non parlare di Berlusconi, perché... Di non parlare di Scilipoti, no. Di eliminare la rilevazione, vietarla, dell'audience, dell'auditor, solo negli spazi dell'informazione dei telegiornali, o meglio 5 minuti prima e 5 minuti dopo, per evitare l'effetto traino, perché in questo modo toglieremo all'informazione anche l'imbastardimento, insomma la cosiddetta contaminazione dell'infotainment, che fa sì che abbiamo appunto una diffusione di notizie che non è sulla base di ciò che veramente magari sia rilevante, ma ciò che si ritiene che alla gente interessi, e anche se non fossero notizie, per esempio come si fa il risotto, per esempio che ne so, la nuova automobile della Fiat, oppure come posso dire, oppure anche cose su Berlusconi in positivo e negativo a seconda. Secondo argomento veloce, Tosi è un grandissimo personaggio, un ottimo personaggio nello scenario, grandissimo in confronto a quel che passa al convento, e ha una serie di materia prima nella scatola cranica, di materie prime nella scatola cranica, che si tratta di capire ora alla prova del 9 se nella Lega costituiscano aggravante oppure insomma qual è il contrario di aggravante? Un attenuante. Ecco, per finire, Berlusconi è gay, l'ho detto per completare, siccome è l'unico reale, lo dico io, no, così ecco, faccio l'ultima accusa. Ora Berlusconi è stato accusato veramente di tutto, ecco, Berlusconi ora lo può dire. Sì, questo lo mandiamo subito all'ANSA, però sì, certo. Paolo Corleone, due punti, Berlusconi è gay. E anche il nostro Alessandro Valia. Seconda domanda, come fai a saperlo? Sentite la prossima puntata di non ci sono più le mezze stagioni. Continuo ad avere molti messaggi, ma come vi dico, io in genere leggo dopo la trasmissione perché voglio sentire le vostre voci. Roberta Giordano sempre con voi, quindi chiamate l'800 24 00 24, come Mario da Milano, Remo dalla provincia di Brescia, Marco dalla provincia di Lecco, dopo questo scoop pazzesco di Filippo Facci, giornalista di Libero, che è qui con me e che vediamo se in qualche modo farà tremare, diciamo, le pareti dell'Italia. E stavo guardando un po' sollevata questa agenzia di poco fa, forse sarei sollevato anche tu, Filippo. Ogni tanto qui ci arriva, sembra qualcosa che stia arrivando sulla nostra testa, o qualcuno da Marte veramente sta lanciando cose, stufo di vedere quello che succede sul globo terracqueo, o non lo so, ma non c'è alcun rischio che frammenti del satellite tedesco Rosat, il cui rientro in atmosfera è previsto tra la sera di oggi e domani mattina, cadano sull'Italia. O c'è un problema di monnezza, un'emergenza monnezza anche nello spazio, non lo so, ogni poco qui ci salviamo per un pelo. Non lo so. Comunque, Filippo, io direi di dare subito spazio a Mario da Milano, poi come promesso leggiamo anche qualche notizia da Facebook. Mario. Buongiorno. Buongiorno, Mario. Allora, siccome il signor Filippo Facci ha detto che sta all'Ambrada, io sto a Sagrada. Ah, però sono a Lecce. Ci informiamo su zona di Milano est, sì. Molto est, sì. Però io sono di Lecce, sono salentino. Sì, e quindi bella città Lecce. Ha detto una cosa non giusta che si chiama... reale, si chiama Giovanni, ma si chiamava Auronzo. Ah, no, Auronzo è un paese dell'Alto Adige, chiedo scusa. Pensa, ecco, grazie Mario di questa promozione. Il santo patrono di Lecce. Ho cavolo, ho passato pure Auronzo. L'estate a Lecce io, mannaggia. Ecco, allora venga al mio residente, Villa Marina. Hai visto, pure l'invito lavorando. Così e ti sei pure ecco. Guadagnato. E guarda che Villa ci vengo, Marina, occhio. Se lo vedo. Ma me lo scrivo, Mario, Villa Marina. Guarda che è uno scroccatore, poi Filippo viene veramente. Vengo, Mario. Mi piazzo di due mesi. Non c'è problema. Lui, Filippo Facci, mi è simpatico. Quando parla e dice le cose che penso io, mi sta ti è simpatico, altrimenti ti è antipatico, insomma, ondulatorio. Io dico le cose che penso lei. No, quando ci troviamo in sintonia, per carità. Mario, dimmi una cosa che ti piace che ha detto Filippo Facci, per esempio. Non so, so che è difficile, ma è stato in mezzo alla chiamiamola confusione, casino, quello che è a Roma. Il discorso è che purtroppo c'è paura oggi quando fanno queste dimostrazioni, proprio perché questi black bloc, che io non riesco a concepire come non fanno la polizia, chiamiamola tra virgolette polizia segreta, per dire così, l'intelligence, i servizi segreti, come fanno a non bloccarli per a tempo? A bloccarli sul nascere, nei loro paesi, perché hanno rovinato, secondo me, una manifestazione. E ci siamo purtroppo, come sempre ultimamente, ci distinguiamo nel mondo in senso negativo. Hanno disturbato una, a prescindere se uno si è d'accordo o meno, però è un modo di no, è chiaro, hanno inficiato l'efficacia del messaggio. Mario, ti ringrazio, certo. Scusami, è che ci sono molti ascoltatori ancora. C'è Remo dalla provincia di Brescia. Da Brescia, Remo. Buongiorno signora. No, non mi chiama signora Remo, però poi ti chiama signore. Mi piace che ti chiamo signore e tu mi chiami no, signora. No, sono vecchio, ma non così tanto. Neanch'io così vecchio, non così tanto. Ma allora, la mia formazione professionale, siccome la faccio ristoratore, chiamo tutti signore, chiamo signore. Ma se io ti chiamo signore, scusi signore, mi dica la sua. Tu sei contento se dico signore? Ma non... No, vabbè, dovete andare avanti molto. Molto sì, cosa. Sì, cioè, perché ogni volta mi indigno, no, sono indignata su questa cosa. Chiamami. Non si indigni, lo prego. Guarda, Remo, se mi vuoi dare del tu, chiamami Roberta. Se mi vuoi dare del lei, mi chiami dottoressa. Ok, sì, Roberta. Ti do del tu che faccio. Benissimo, che ecco. Ci capiamo. Volevo dire due cose. Forse io sono un po' fuori dal coro, nel senso che io non penso Canti? Che la televisione no. vada sì. riformata. Sì. La televisione va spenta. Nella maniera più assoluta. Per ascoltare la radio, naturalmente, la conclusione. Per no? ascoltare la radio, molto leggere bene. I giornali e informarsi con altri metodi informativi, che non è sicuramente la TV. Io vivo ormai da circa 4 anni, io ho fatto una scelta un po' particolare con mia moglie, viviamo nel bosco con cani e gatti. Le volpi? Ci sono le volpi? Sì, ci sono anche le volpi. Si avvicinano tassi, molto ultimamente. Tassi volpi, alti o bassi? Bassi o alti i tassi? I tassi dipende, a volte sono un po' grandi, a volte un po' piccoli. E come hai fatto a trovare la casa nel bosco? No, perché mi ero interessato anch'io. No, basta, già traslocato quelle 3-4 volte, scusa. No, è stato un caso, però io vivo in Valle Camonica. Bello. Ci sono delle cascine anche da ristrutturare. Bello, bellissimo. Ecco, siccome Facci ha appena fatto l'ennesimo trasloco, potrebbe essere una buona idea. Grazie Remo della provincia di Brescia. Grazie Remo e salutami i tassi, alti o bassi, preferisco quelli bassi. Marco della provincia di Lecco. Buongiorno dottoressa Roberta. Tutte e due, Marco. Diamoci... Non ho mai detto a nessuno che ha una bella voce alla radio. Diciamo... No. No, nessuno, mai. Sono mai il primo, successo... ho fatto lo scoop anch'io oggi. Non una volta che qualcuno mi avesse detto hai una bella voce. No, veramente, ha una bella voce alla radio. Grazie Marco. C'è altro? Io volevo fare una considerazione su Berlusconi e poi fare due domande al giornalista, se possibile. Sì. La mia è una provocazione, ricollegandomi al discorso di chi ha chiamato prima dicendo che non bisogna parlare più di Berlusconi. E Facci ha detto che è gay, questo lo, no, mi si abbassa anche la voce per il conturbamento. Il radioascoltatore che ha chiamato un quarto d'ora fa che ha detto che non bisogna parlarne proprio più di Berlusconi. Però sì, giusto, non bisogna parlarne più, però Berlusconi dovrebbe fare tre cose secondo me. La prima, dimettersi. La seconda, andare in televisione, in tutte le televisioni, e chiedere scusa a tutti gli italiani. E la terza cosa, come risarcimento danni allo Stato Italia, dovrebbe dare tutti i suoi beni allo Stato italiano. Ci picchia, questa la vedo, forse la più difficile questa. Io non sono di sinistra, io non sono di sinistra. Di dove sei, Marco? Io dalla provincia di Lecco. No, di dove sei di posizione politica, di collocazione, ma di orientamento? Ma io ho votato per parecchi anni la Lega, attualmente mi sono schifato di tutto e di tutti. E io credo che anni fa la Bossi ha costruito una bella Lega e negli anni la sta distruggendo la Lega. Questo è il mio punto di vista. Guarda, leggevo proprio di... Chi è una Bossi, la bicicletta la Lega di Facci? Bossi e la Lega. No, però scusa, la Lega... Marco, mi hai fatto venire... Perdonami se ti interrompo brevemente. Mi hai fatto venire in mente una battuta di Crozza che avevo visto giorni fa. Eccolo qua, sul giornale. Dice, Bossi non è riuscito di dividere l'Italia, però almeno si è dovuto accontentare di dividere la Lega. Questo, quindi, ma io da parte mia, se posso dire un'altra provocazione, io no, ai tempi, non, a parte che secondo me ha sbagliato i passaggi, perché magari se stava un po' più tranquillo dal 94 venendo in avanti, magari qualcosa avrebbe fatto di più nella Padania Libera. Io attualmente, per come vanno le cose, per il debito pubblico e per tutto, io farei la Brianza Libera, non la Padania Libera, se dobbiamo essere sinceri. E se mi è permesso vorrei fare un paio di domande al giornalista che è lì. Vediamo se è in grado, proviamoci Marco, vediamo. La prima domanda, Libero non era, diciamo, per vie traverse filo berlusconiano? Beh, non per vie traverse, Libero. mi sembra la abbastanza seconda? Apertamente. La seconda. Mi può rispondere prima a questa, poi in base a questo dico la seconda. Sì, e lo è ancora. Bene, Marco. E cosa è successo allora per dire quello che ha detto su Berlusconi? Avete picchiato la testa un po' di persone, un po' di giornalisti, Bel Pietro, chi non lo so. Nel senso. No, la testa è solo quella di Facci, parliamo della no, sua. No, nella testa nel senso di dire che è cambiato qualcosa. È cambiato qualcosa? Faccio da intermediario. Sì, che è cambiato, però non essendo un giornale di Berlusconi, ma filo Berlusconi, è un giornale che si è sempre permesso, e ovviamente questo periodo di più, di anche fare delle critiche nei confronti di Berlusconi. Se lei poi va a leggere quello che ho scritto io negli ultimi due o tre anni, anzi forse tre o quattro, allora potrebbe chiedersi se qualcuno ha picchiato la testa a me. No, ha picchiato la testa nel senso che si è fatto, ha cambiato qualcosa nella redazione o qualcosa del genere. No, nella redazione non è cambiato niente, assolutamente. Forse una scrivania, forse qualche segna. No, se si riferisce a assetti interni, da quel punto di vista l'unico cambiamento negli ultimi tempi sono stati gli andirivieni patologici di Vittorio Feltri. Dei direttori. No, di uno di Vittorio Feltri che andava, veniva per in base... Marco, poi dopo ti do il numero di Filippo, così dopo vi confidate, insomma. Insomma, mi censuri, non mi fai parlare. Io ho fatto queste domande perché, sì. Io vi spiego una cosa. Sì. A me diversi anni fa il direttore, non Bel Pietro, l'altro, Feltri, piaceva molto quando scriveva sull'Indipendente. Marco, però qui ci dilunghiamo, perdonami, poi magari a qualcuno qui non interessasse, diciamo, il percorso, e poi abbiamo anche la viabilità. Scusami Marco, c'è sempre l'800240024 a cui stanno chiamando moltissime ascoltatrici e ascoltatori, e prima della viabilità, se mi consente Paolo alla regia, vorrei velocemente citare qualche notizia da Facebook, perché è un po' che lo prometto. C'è Santina che dice sulle notizie di questa settimana: a me ha toccato moltissimo la morte del tiranno Gheddafi. Ecco, finora nessuno ne ha parlato a voce, a parte ogni considerazione sull'amicizia con il nostro premier che si commenta da sé, dice che forse ha dato qualche frutto economico. La foto dell'essere umano ferito a morte, trascinato e calpestato mi ha riempito di orrore e di pietà. Roberto dice: Roberta, io mi chiedo come sia possibile che in questo paese, con tutti i problemi che abbiamo, si possa spendere del tempo per una faccenda inutile fuori luogo come quella dei ministeri a Monza. Sapete che il Tribunale di Roma li ha bloccati, almeno per il momento. Emilio scrive: e Massimo D'Alema indagato dai PM romani è sull'inchiesta dell'ENAC, ma mi pare che ieri si parlasse di una possibile archiviazione. Poi Corrado dice: per Gheddafi e gli scontri di sabato, dico che la violenza non nasce mai dalla violenza non nasce mai nulla di positivo. Per il balletto su Banca Italia e i ministeri del nord, dico che dal berluscoleghismo possiamo aspettarci solo di non toccare mai il fondo del ridicolo. 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta. Ma volevo chiedere a Filippo, per l'appunto, ma io voglio dire una cosa. Boss indignato per il governatore di Banca Italia, che è napoletano e non milanese, secondo te se l'è presa? Credo di sì, ma non ne ho la minima idea. Puoi chiederlo anche a uno che passa per strada, molto che bene, ne sa più di me. Però voglio dire una cosa, poi perché a Rosario, sì. Io non vorrei, una cosa che detesto di più al mondo è la prevalenza del qualunquismo. Ci sono un po' di cose, voglio dire, abbiamo avuto talvolta il tono semiserio durante questa trasmissione, però vorrei dire una cosa su Berlusconi veloce. Sì. Allora, primo, io di Berlusconi non solo penso che non si possa non parlare, ma io voglio parlare di Berlusconi perché è il presidente del Consiglio, primo. Secondo, è stato votato dalla maggioranza virtuale degli italiani, quindi è giusto che sia ancora certo il presidente del Consiglio. Poi ci sono delle cose chiamate elezioni che servono per mandarlo a casa eventualmente e che non possono essere fatte ogni giorno e sulla base magari di sondaggi di impopolarità e che ora lo punirebbero probabilmente. Per il resto non deve restituire niente. Lo chiarisco perché non mi piace, insomma, adesso sembra quasi una moda parlare male di Berlusconi e attribuirgli tutto ciò che succede anche a livello europeo e planetario. E io non è che lo stia difendendo, però voglio comunque difendere, anche appunto con un tono improbabile come sto adottando adesso, come posso dire, le forme, quelle forme per cui comunque questa è una democrazia, Berlusconi è il presidente del Consiglio e quindi in una misura ne parliamo perché siamo tutti un po' malati, ma in una misura perché è giusto che se ne parli. Dopodiché votatelo, non votatelo più, fate come volete. Guardavo soltanto un messaggio, ma ripeto, io li guardo dopo i messaggi, quindi non mandateli possibilmente, ma poi li leggerò, di un ascoltatore o un'ascoltatrice, dice: si fa chiamare dottoressa perché signora non è all'altezza? Assolutamente no, è che mi dà fastidio, diciamo, e che intanto preferisco il tuo, e poi mi dà fastidio che le donne le chiamano signore e agli uomini non li chiamano signori in genere, non dicono al conduttore signore, o insomma, quindi mi piace, diciamo, un'altra terminologia, poi ognuno usa quella che vuole. E c'è Rosario da Napoli all'800 24 0024. Rosario. Salve, salve, buongiorno. Buongiorno Rosario. Senti, prima di dirmi la tua notizia, che non so bene quale sia, ma a te che impressione ha fatto, visto che di chi ha chiamato al numero verde nessuno ha citato la morte di Gheddafi, che effetto ti ha fatto questa cosa? No, sicuramente senso di sicuramente non piacere, non è piacevole, nonostante ciò che si possa aver detto su questo signore, cosa possa aver fatto. No, sicuramente non è stata una cosa bella da vedere né da immaginare, insomma, al di là, ripeto, della crudeltà di questa persona nella sua vita precedente, insomma. Va bene, quindi, la tua notizia non era questa, sì, immagino. No, mi ero semplicemente volevo collegarmi a un intervento fatto da una persona poc'anzi in merito alla Lega, nel senso che io credo che così, per una crescita anche dello stesso partito, cioè credo che sia giunto il momento che abbiano il coraggio di separarsi, cioè di affrontare una politica nazionale e tenere fuori, cioè una Lega nazionale, mi immagino, e una minoranza che sia, diciamo, un po' come è accaduto in altri partiti che si sono scissi e quindi sono rimaste piccole frange estreme, e abbiano il coraggio e la forza di proporsi in modo serio, perché veramente in alcuni casi è ridicolo, a livello nazionale. E poi in merito alla ricchezza, il nord, il sud, le solite storie, diciamo, raramente vedo evidenziare che cosa, quanto è stato importante per lo sviluppo di una parte del paese avere un'altra parte del paese, dello stesso paese, la stessa lingua, gli stessi soldi, le stesse strade, più povero, cioè in effetti un mercato interno bello lì, pronto a disposizione, che ha fatto sì che altri mercati dello stesso paese si arricchissero. Rosario, ti ringrazio, un discorso un po' articolato il tuo, ma adesso siamo veramente di corsa, tra poco abbiamo Valeria Della Valle per la parola della settimana. Andrea da Parma, se riesci a essere sintetico, un po' più sintetico tu di Rosario, Andrea, Ciao velocissimo. Lo concedi, grazie. Ciao, avete una bellissima voce. Allora, ascolta. No, niente. Molto veloce, la mia riflessione sulla manifestazione di Roma è che secondo me è stata una purissima perdita di tempo. Nel senso che, a parte i danni, le mazzate, i feriti, i black box, tutte le cose diciamo che è meglio non vedere, mi sembra che abbiamo dato semplicemente un'altra possibilità alla nostra politica di distrarsi, di occuparsi di altro, al di fuori di cui deve oggettivamente occuparsi. Io ascolto molto Radio 24 e mi sembra che la situazione sia pessima, ci siano certe problematiche, insomma, non da scherzo. E mi sembra che loro abbiano così nuovamente perso tempo dietro tutti i vari accadimenti di Roma, come è successo del resto che dopo dei crolli di borsa, una serie di problematiche adesso non ricordo con precisione, si sono occupati il giorno dopo di intercettazioni. E qua mi sembra che nuovamente gli abbiano dato solamente così maniera di occuparsi di altro. Grazie Andrea del tuo punto di vista, anche se che naturalmente chi manifestava in Italia come nel resto del mondo insomma riteneva di avere delle buone motivazioni. E c'è tra pochissimo, sì direi subito, ecco, la Valeria della Valle, alla quale, visto che ne abbiamo parlato poco, io sto porrei come termine, Valeria della Valle della Sapienza di Roma, dittatore, cioè dittatore Valeria. Dittatore, una parola a caso. Dunque dittatore, la parola viene ovviamente dal latino dictatorem, che a sua volta derivava dal verbo dictare, che significava appunto comandare. Poi la parola è passata nella lingua italiana, il dittatore nella Roma repubblicana era il magistrato supremo, quindi quello che rimaneva in carica 6 mesi e veniva eletto nei momenti di grave pericolo per lo Stato, ma poi la parola è stata assunta anche nella nostra lingua col significato di capo politico assoluto, autoritario, e poi anche col valore figurato che si riferisce semplicemente a persone autoritarie e o dispotiche, quindi a chi impone di far accettare le proprie idee, i propri gusti. Quindi decisamente ci piace di più quel significato figurato, no? Possiamo parlare di dittatori o dittatrici nel campo della moda, dell'arte, della letteratura. Ecco, dicevo, ci piacciono più questi di dittatori o di dittatrici rispetto ai dittatori veri, perché come abbiamo visto prima vengono baciati, ma poi finiscono sempre o quasi sempre, come in questo caso, molto molto male. Grazie Valeria Della Valle. Grazie Valeria, leggevo un'agenzia di pochi istanti fa a proposito di crisi e a proposito di Sud, visto che mi pare citasse, parlasse anche Rosario. Allora, un programma straordinario, questo è Tremonti, un programma straordinario per lo sviluppo del Mezzogiorno che si chiamerà Eurosud e che prevede una revisione strategica dell'uso dei fondi strutturali europei. E quanto ha presentato il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti al Presidente della Commissione Europea José Barroso nel colloquio telefonico di oggi. Staremo a vedere se è la volta buona per il Sud oppure no. E mentre stiamo per chiudere, chiedo a Filippo Facci, volevo chiederti anche se i radicali hanno capito cosa faranno da grandi o no, erano a cena ieri mi pare da Berlusconi, e a te piacciono le salviette profumate? Quali, quelle di carta o quelle? Quelle imbevute di... no, proprio da mangiare, dico, non ti piacciono? Le salviette profumate da mangiare? Da mangiare, pensa che uno che, a cui era stata ritirata la patente già tempo non fa, le ho mai assaggiate. Guidava vicino a Cuneo, cosa ha fatto? Quando ha visto che l'hanno fermato, il carabiniere ha ingoiato un'intera confezione di salviettine profumate per tentare di ingannare l'etilometro e farla franca. Ah, invece certo. Insomma, gli è venuto un gran mal di pancia, l'hanno portato pure in ospedale. Ah, la prossima volta si può buttare dalla macchina e quindi in insanguinarsi, così lo portano all'ospedale. Evita il test. Molto bene Filippo, la prossima volta ti voglio più ottimista, ma lo sei già stato secondo me. Oggi pioverà. Molto bene, grazie Filippo Facci. Io mi auguro di no. Da Roberta Giordano, effettivamente sereni orizzonti a tutti.